sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Leggo sui giornali di oggi che il testamento biologico è l'elemento di divisione più evidente nel Partito Democratico. Ma è realmente così presente nella coscienza di voi che ascoltate? Siete veramente così preoccupati del vostro testamento biologico? Beh, non voglio metterlo in dubbio, ma vorrei oggi riportare la vostra attenzione sull'origine di questo termine e sull'accezione più comune che noi usiamo per il termine testamento. Io, Marchesa Anna Rosa Capellini, nelle mie piene facoltà di corpo e di mente, non posso dimenticare chi mi fu affezionato e fedele per anni e anni. Ciccio da noi parla, la buon'anima non si è mai dimenticata di noi. Per noi non era una padrona, era una madre. Una mamma. Sì. E noi eravamo per lei i suoi due figli. Due figli. Con l'onere di un vitalizio di 1 milione al mese ciascuno a favore dei miei due fedeli servitori, Ciccio la capra e Franco Pipitone. Un vitalizio. Ciccio, natalizio siamo. Milionari, 1 milione al mese. E dove vai a passare le ferie, my boy? Beh, ancora non ho deciso. Non ha deciso. Un momento, prego, c'è una condizione. La condizionale? Quale? Quale? A condizione che si prendano cura del mio adorato gatto di nome Arcibaldo e lo custodiscono con amore fino all'ultimo giorno della sua vita. Accettate il lascito? Il lascito sì, la condizione no. Impossibile, si tratta di condizio sine qua non. Senta, se la condizione sia del no, le dico subito che sono per il no. Noi accettiamo tutto, meno il gatto. Oh. No, il gatto è obbligatorio. Dov'è? Dov'è? Lo devo vedere. Naturalmente la parola testamento fa correre veloci le mani agli attributi virili, a coloro che ancora li posseggono, perché dicono: perché mi parli di testamento? Io mica sto morendo, perché devo pensare a cosa lasciare? Ancora devo accumulare, quindi non mi pongo il problema. Beh, pensate che fare testamento è una grande occasione di saggezza. Fare un giusto testamento finché ancora si è nell'età della ragione significa evitare quelle laceranti discussioni nelle famiglie, quegli accoltellamenti tra fratelli, quelle disastrose vicende familiari che proseguono e permettono per anni e anni di avere argomento di discussione per tutte le feste comandate. Perché oggi voglio parlare del testamento? Che forse il testamento si parla poco, se ne parla soltanto quando ci sono illustri testamenti contesi da personaggi cari all'attenzione pubblica, ma modestamente chiunque può fare testamento, anche un nullatenente, anche chi non possegga nulla. Anzi, fare testamento è una grande occasione per lasciare una traccia postuma di se stessi. È un piccolo strappare all'immortalità un brandello di esistenza. Noi facciamo testamento, lasciamo delle volontà, lasciamo dei segni di attenzione, lasciamo dei segni di disprezzo, riveliamo cose che non abbiamo mai potuto rivelare durante la vita. Fare testamento significa lasciare una traccia ancora sottile della propria anima nelle persone che ci sopravvivono, e si spera questa traccia lasci molte volte un segno profondo. Carlo ha lasciato anche il suo fratello due cliniche modello. Due cliniche? Modello. Come sarebbe modello? Due cliniche perfette. C'è gente dentro? Come no? Ammalati? Ammalati? Via, via, via, via, via. Facciamo piazza pulita. La clinica l'ho bisogna libera. Io ci devo squazzare dentro. E poi, oh, io sono miliardario. C'ho due cliniche e mi servono. Ma lei può fare quello che vuole, ma ci sono degli ammalati gravi. Come si fa? Ammalati gravi? Si manda lo sfratto agli ammalati. Quando possono campare questi ammalati? Ma ammettiamo anche che io voglio essere indulgente. Quando possono campare? Ma non lo 3-4 so. Giorni. E poi me li faccio fuori. Abbiamo sì, me li faccio ma fuori. Li faccio fuori. Infine, tra le proprietà lasciate dal generale, l'altro suo fratello, è compreso un busto in oro del duce. Un busto in oro. Ma del no. Duce. Sì. Un busto. Un busto in oro. Ma che questo mi giunge nuovo. E chi poteva pensare che il duce portasse il busto? Ecco, no. Perché stavo bello tutto dritto. No, no, no, non è che il duce portasse il busto. Ma no, portava un reggipetto. No, signore, che reggipetto? La pancera. Ma neanche la pancera. Ma lo sa che lei è un bel tipo. Lei prima dice il busto e poi se lo nega. Ieri ho lanciato questa folle idea, fate testamento, nel mio profilo di Facebook, in questo stramoderno, iperfrequentato e logorato dall'abuso che se ne fa nel citarlo continuamente in questi giorni, luogo virtuale, hanno tutti lasciato il testamento. Nella più arcaica e classica delle maniere, sembrano testamenti tratti da vecchi manuali, in cui c'è una sapiente miscela tra beni concreti e beni immateriali, che in realtà, visti dall'ottica del post-mortem, hanno la stessa consistenza. Quando si è morti, cosa ce ne importerà più del tavolino d'autore, del quadro, della casa, di ciò che vogliamo lasciare di concreto, come allo stesso tempo delle massime di saggezza, di ciò che pensiamo di aver accumulato di esperienze in una vita. Questa mattina ho lasciato il mio testamento su Facebook. Lascio a chi se la merita la formula del perfetto Margherita. Agli altri lascio naturalmente la possibilità di abbeverarsi alla loro mestizia. Tanto, tanto tempo fa, un mugnaio, dopo una lunga vita di lavoro, chiamò al letto di morte i suoi 3 figli. A te, figlio primogenito, lascio il mulino. A te che sei il secondogenito, lascio invece l'asino. A te che sei il più giovane, lascio il gatto, al quale ero tanto affezionato. E ora, figli miei, abbracciatemi per l'ultima volta. E i fratelli rimasero soli. Io lo accetto con piacere, se anche lui è del parere. Questo è l'incipit del Gatto con gli stivali, ma quante favole iniziano con un padre che muore e fa testamento. E dalle fattispecie di questo testamento si snodano poi le vicende dei figli, che devono comunque superare delle prove, devono conquistarsi il diritto del possesso a quei beni. Molte volte i testamenti hanno delle clausole, hanno delle condizioni, hanno appunto dei percorsi di perfezionamento che devono dare disponibilità solo sotto condizione. Avete sentito anche Franco e Ciccio, servitori, alla morte della loro vecchia padrona, devono avere come condizione del loro vitalizio il mantenimento di un gatto che penso che abbiano già ucciso e se ne sono già liberati, se ricordo bene quel tipo di film. Beh, dicevo, su Facebook hanno risposto molte persone e hanno dato condensato in un documento futile, perché si sovrappone e sovrascrive man mano che scorrono le pagine, un'esatta indicazione di quello che in fondo è l'atteggiamento base di un essere umano di fronte alla estrema possibilità di lasciare qualcosa di se stesso. Quindi si dividono fra testamenti legati a beni materiali, non so, mi scrive Giulio, lasciare ciò che si è accumulato è semplice da farsi. Lasciare ciò che possediamo tutti e nessuno allo stesso tempo è un impegno di ciascuno. È bello pensare di lasciare ai nostri futuri figli questo modo in modo che possiamo goderne, questo mondo di modo che possiamo goderne, gioirne, soffrirne, averne cura, preservarlo, difenderlo, per poi fare a loro volta testamento. Questo è come i bambini che la maestra dice: facciamo un tema, cosa devi chiedere a Giuseppe bambino? Chiedo la pace nel mondo, chiedo che tutti i bambini negretti possano mangiare. Il più ipocrita dei bambini dice questo, e il più ipocrita dei morituri, che in realtà è lontano dalla morte, scrive questo: lascio il mondo. Il mondo non ha bisogno di essere lasciato, rimane lì, siamo noi che lo lasciamo magari. Invece è molto più concreta Ubalda, che dice: lascio l'appartamento a mio marito e dopo la sua morte a mio figlio, e questo è quello che abbiamo depositato presso il notaio, tutte le mie cose, libri, ore di famiglia a mio figlio. Quindi logicamente lei dispone le sue piccole cose. 800240024, facciamo finta che oggi vogliamo scrivere il nostro testamento. Ho una grande, profonda e inesauribile curiosità di sapere da voi cosa lascereste se in questo momento voi doveste fare il vostro testamento. Ma non soltanto le vostre piccole cose, il bricolage accumulato durante una vita, il mobilio, il canterano di famiglia, il copriletto, il gatto impagliato, ma cosa lasciate di quello che avete capito della vostra vita? Il medico curante mi ha curato a schifo. Non avendo più niente beni, muoro senza il piacere di fare un presente a nessuno, come fanno tutte le persone che muorono a questo mondo. Datasi la mia nobilità, ho mancanza di marito e di figli mascoli oppure femmine. Ho solo 2 nipote, che si sono già mangiati tutto con 1000 scuse di sussistenza e di sangue, ma sono contenta lì stesso, datasi che sempre a loro andava tutto il mio. Il rimanente, che non era poco, se lo ha mangiato il medico curante che mi ha curato a schifo, perché sto morendo uguale che se non lo avevo, ma sparambiavo la spesa. Perciò faccio testamento solo per chiedere la gratitudine di una preghiera a suffragio e almeno una messa a ricordo della mia nascita. Ho scritto tutto con la mia mano buona. Zia Nicoletta Aufiero. Qualcuno già mi sta scrivendo nel mio profilo testamento biologico. Ma perché vi siete fatti sovrascrivere l'idea del testamento biologico, che io rispetto, sulla quale non voglio entrare in merito perché non è argomento di questa trasmissione, rispetto al vero concreto testamento? Vi fa paura pensare al testamento? Avete pensato al vostro testamento? Vi immaginate cosa possa succedere oggi se voi doveste improvvisamente scomparire delle vostre cose? Si accapiglierebbero i vostri figli, i vostri parenti? Non avete nulla da lasciare, ma nemmeno un pensiero, nemmeno un ricordo, nemmeno una vendetta. Immagino che ora state qui, davanti al notaio e a due testimoni di fiducia, per sentire come ho deciso di dividere l'eredità che vi resta. Quella che non siete riusciti a togliermi approfittando delle mie necessità di salute, un pezzo alla volta, senza pietà, durante gli ultimi 5 anni, i peggiori della mia vita. Signor notaio, signori testimoni, questa signora mesta, come un amantide religiosa, è mia moglie. Tira sempre su di naso, non per commozione o per raffreddore, ma perché tiene una specie di tic. Afferma che le è venuto dopo il secondo parto. Questa donna, apparentemente delicata e timida, attualmente in falso lutto vedovile e che sta piangendo lacrime di cipolla, è una formidabile e insospettata puttana. Si è ripassata tutto il condominio come se fosse stata una cura prescritta dal medico. 40 e passa appartamenti, tutti gratis, manco a dire per mestiere o per esigenza di famiglia. L'unico col quale non ha voluto più stare sono io, che ne avrei avuto anche il diritto avendola sposata. Vi sarà dato di pensare che questi testamenti che vi stiamo leggendo siano frutto di fantasia, come il film di Totò, come il film Franchi in Grassia. No, in realtà sono reali e autentici testamenti, che sono stati scovati e pubblicati in un libro in piena facoltà, edito da Mondadori, dal notaio Salvatore De Matteis, anzi, sovrintendente dell'archivio notarile di Napoli. De Matteis, buongiorno. Buongiorno. Lei ha fatto un'opera di ricerca di testamenti da che epoca a che epoca? Quasi un secolo. Fino ai giorni nostri, praticamente. Fino ai giorni nostri, sì. Quindi lei ha visto lo scorrere della storia di un secolo del nostro paese attraverso i lasci testamentari. Esatto, sì, dire che esista un mix fra volontà di lasciare veramente qualcosa di concreto e volontà di lasciare a volte anche ferite profonde in chi sta lì radunato davanti al notaio speranzoso di beni materiali? Sì, lei ha detto delle cose molto giuste prima. Vorrei aggiungere solo questo, che mi sono interessato essenzialmente ai testamenti olografi, cioè quelli scritti direttamente dall'interessato con la sua mano, firmati e sottoscritti. Perché di questi? Questi non si fanno dal notaio, uno se lo fa magari in un momento di rabbia, lo scrive e poi... Perfetto. E proprio perché è il solo, non ci sono testimoni, non c'è una terza persona, nessuno anche di famiglia presente, alla fine si esprime con estrema libertà. Ecco, accuse, confessioni, ringraziamenti, insomma tutta una parte che normalmente non si ritiene possa far parte di un testamento. Quindi questi testamenti, in questi testamenti olografi, la maggior parte delle volte il patrimonio di cui si parla non è il patrimonio di beni materiali. Per patrimonio finiscono con intendere proprio tutta una ricchezza di sentimenti, la propria filosofia di vita, il trascorso, le aspettative, anche dell'aldilà. Quindi c'è una evoluzione del concetto di patrimonio che è molto umana, molto bella. Comunque anche l'odio di un marito cornuto in fondo è un patrimonio da lasciare all'umanità. Esatto, perché in questo momento in cui scrive quel soggetto si sta in qualche modo vendicando e pregusta quella che potrebbe essere la scena davanti al notaio della moglie che si sente chiamare nel modo più giusto, cosa che lui avrebbe voluto fare in vita e non ha fatto. Non si sa perché, magari, non lo so, stava combinato male, aveva paura di... Poveraccio, aveva un condominio contro, cosa poteva fare? Era l'unico a cui la moglie non la dava di tutto il condominio, che doveva fare lì, poverino? Meno male che era un condominio piccolo, perché oggi sei un grattacielo. Beh, ha detto 50 condomini, non è che fossero pochi comunque. Capisco che la vita è lunga e intensa. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Allora, è disposto a fare testamento questa mattina? Ma io l'ho fatto ieri, questo il discorso. Ah, perché aveva già visto la mia notizia? Vabbè, sentiamo. No, senza averlo visto. Io ascolto la sua trasmissione occasionalmente quando non ho possibilità, però stamattina ho acceso la radio, sentivo che si parlava di questa cosa, ho detto, ma guarda che coincidenza, l'ho fatto ieri. Ecco, l'ha fatto perché si sente vicino alla morte o così? Per no, perché purtroppo in questo momento, anche se non ho un'età molto avanzata, io ho intrapreso un'attività che non sta andando bene, quindi se mi capitasse qualcosa in questo momento io lascerei anche dei debiti, non solo quelli. Cioè non è che si vuole suicidare... Ma, no, lo dica, volte, perché le do una parola volte, amichevole, un consiglio. Sì, certe volte uno ci pensa, eh? È veramente inutile, inutile non guardi, dirlo certe volte. Pensarci è lecito, ma esatto, abbastanza pericoloso. Bene è comunicarlo agli altri, così tutti si affannano a starci vicino, a compensare quello che loro pensa. Comunque in questo testamento ieri, come è olografo anche tu, l'ha scritto esatto, a mano. Io l'avevo fatto a computer, ho un'amica che mi ha fatto delle correzioni, che io tra l'altro ho nominato come mio esecutore testamentario, che mi ha fatto delle correzioni perché ha delle competenze legali, e l'ho trascritto olografo, appunto, l'ho dovuto trascrivere tutto, e mi sono reso conto della fatica che si fa a scrivere a mano da quando siamo abituati a scrivere al computer. Ma quindi non è autenticato dalla sua amica, è scritto in un documento Word in cui l'ha firmato sotto? No, adesso poi l'ho riscritto tutto di mio pugno. Di suo pugno. Adesso dove l'ha nascosto questo testamento? L'ho messo insieme ai documenti notarili di proprietà della casa in modo ben visibile. No, perché accade sempre che di solito quando qualcuno schiatta, la prima cosa che fanno i parenti vanno a cercare il testamento o per cambiarlo, per bruciarlo o per sostituirlo. No, beh, non c'è questo rischio. No, poi provvederò ovviamente a farlo autenticare, a spedirmelo attraverso una busta sigillata, eccetera. Però la cosa è che proprio risale a ieri, per cui non ho ancora provveduto a farlo. Solo una cosa, non voglio entrare nel suo privato. Lascia beni, oltre ai debiti di cui lei ha accennato, che faranno senz'altro piacere. Lascio dei beni che compenseranno questi debiti e dovrebbe anche avanzare qualcosa per le mie nipoti. Io non ho figli, ho nipoti da parte, cioè figlie di fratello e sorella, e quindi ho lasciato quello che credo che comunque avanzerà a loro. Ma anche delle massime di saggezza, delle istruzioni di vita, oppure nemmeno? Per carità, io ho scritto qualcosa nella mia vita, ma sono delle cose talmente orribili che è meglio che spariscono. Comunque lei direi che è maturo in questo momento per una bella fuga nei mari del sud, scompaia, abbandoni ogni non lasci nessuna traccia di se stesso, si vada a godere la vita, magari con l'amica che l'ha aiutata a fare il testamento. Riconosco per dovere di coscienza di essere il mandante dell'omicidio di Caronia, avvenuto verso l'anno 1977. Inoltre riconosco di essere il mandante dell'omicidio di Luciano, avvenuto nell'anno 1982. Dichiaro che per questo secondo omicidio gli esecutori materiali furono due calabresi che mai mi dichiararono il proprio nome e che agirono per l'amicizia profonda che li legava alla buon'anima di mio figlio. Di tale omicidio è stato ingiustamente accusato e condannato Carmelo Fanucchio, Fu Nicola, nato a Canicattì il 25 maggio 1943, il quale è innocente. Calogero Minichè. Salvatore De Matteis, avendo lei un'area abbastanza, diciamo, toccata anche dal problema della malavita organizzata nella sua attenzione, ne ha trovati molti di questi testamenti che rivelano in maniera postuma la responsabilità in un omicidio? No, non molti. Questo qua è eclatante perché ci sono, ovviamente io non li ho riportati esattamente, ma ci sono nomi, cognomi, eccetera. Ma c'è... Quindi scagiona alcune persone, magari stanno scontando una pena. Però indubbiamente il magistrato, questa è una ipotesi di confessione stragiudiziale prevista dal codice, però il magistrato in queste cose qua si deve andare molto cauto, perché si può anche immaginare che sia stata, non lo so, una confessione... per salvare un amico, tanto non costa nulla. Per salvare un amico, ecco, si è venduto qualcosa, diciamo, per aver ottenuto qualche favore. Ah già, perché non avevo pensato nella mia ingenuità a questa fattispecie. Tu stai per schiattare, metti nel testamento che sei stato tu, ti pago un bel funerale, aiuto i tuoi figli, così mi fai uscire da galera. Questo dovrebbe essere l'escamotage. Potrebbe essere l'escamotage, sì. Senta, invece il testamento usato, come diceva il signore prima, sull'orlo del suicidio, per in qualche maniera sanare una situazione di forte esposizione verso creditori. Sì, io ho sentito, ha detto delle cose, gli darei un suggerimento, si può? Ecco, si sta ascoltando. Sì, perché invece non lo deve fare autenticare, ha fatto un testamento olografo. La cosa più bella è proprio questa, che lo lascia ad un amico o a un'amica senza andare dal... E si vede che non si fida abbastanza dell'amica, sa come sono, le persone sono volubili. E vabbè, allora non fa più copie. Ah, no. non sarebbe l'unica via di questa precauzione. Ci sono personaggi famosissimi che hanno fatto cose di questo tipo, no? Melog 2.0. Mio marito lo prende chi lo vuole. Nomino cognato Angelo erete di mia parte eredità qualora mi sentissi male. Si deve fare tutto col silenzio che non sape mia sorella e mio marito. Nella vita eterna sceglio Angelo, anche se mia sorella protesta. Spero che Angelo muore subito appresso a me, così mia sorella trova tutto già fatto e è inutile a discutere. Mio marito lo prende chi lo vuole, tanto è inutile e non funziona. Ada Motti. Da nulla tenente, scrive Elisabetta, le mie carni scarne, le mie ossa sode per intere ben conservate, perfette per cani da riporto, per scimmie manesche. A chiunque sappia ricomporre un puzzle, la mia gatta come al solito mi cercherà, ritroverà sotto il tavolo in cucina, nella coperta di lana infeltrita, sotto il copriletto. Siamo già d'accordo, il patto è concluso e reciproco. Questo scrive Elisabetta. Cristiana invece mi scrive, il mio corpo alla scienza è un vero peccato perché io la conosco, Cristiana. I miei amati libri e i miei figli, un sacco di bei ricordi, al mio amore e alle persone a cui ho voluto bene. Roberta, soldi non ne accumulo, libri tanti, li lascio a chi leggerà di sicuro, tutti gli organi riciclabili a chi ne ha bisogno e sottraggo la mia carne ai vermi facendomi cremare, il ricordo a chi mi ha conosciuto e dunque amata. Poi questa cosa del testamento della gattara è molto ricorrente, molte hanno questa ansia di lasciare qualcosa di se stessa ai gatti, ma addirittura qualcosa di personale, la propria carne. Mi scrive Paola in questo momento sulla mia bacheca, dice: se prendo una capocciata il mio cervello va in tilt, provate a nutrirmi con cioccolata calda, non voglio semolini. Al momento giusto prendete tutti i pezzi sani, regalateli a chi ne ha bisogno. Alla mia morte spargete i resti non bruciati sul gattile dove faccio volontariato. I gatti delle mie ceneri non sanno che farsene. Beh, questo sorta di desiderio di dissoluzione del proprio corpo come pasto per i propri gatti lo trovo molto, molto singolare e anche molto interessante. Salvatore De Mattesi, ricordo autore in piena facoltà a Mondadori, è sovrintendente dell'archivio notariale di Napoli e ha raccolto e ricercato testamenti olografi soprattutto degli ultimi 100 anni. Ecco, lei ha trovato tracce di questo lascito agli animali? Sembra una favola, una barzelletta, ma mi sembra molto ricorrente, almeno vedo dalla statistica in internet. Sì, sì, molto ricorrente. Vengono fatti dei lasciti anche sostanziosi. Una volta sono stato, ho pubblicato un testamento su richiesta di certe persone e ho capito male chi erano. Loro erano invece i titolari di questa casa di cura di animali, eccetera, ed erano lì per assicurarsi di prendere tutto quello che dovevano avere in base al testamento. Io invece li avevo scambiati per gli eredi e davo consigli involontariamente per sottrarre qualche cosa perché mi sembrava molto molto forte, esagerato in confronto di questa. Però devo dire che esistono lasciti. Beh, è un senso. È un senso di disprezzo verso gli umani, non lascio niente ai figli, agli amanti, agli amori, ai nemici, ma lascio tutto agli animali. Chissà che gli animali cosa ci fanno con i beni materiali. Ma di solitudine, è chiaro. Evidentemente queste persone sono state insieme ad altre, ma in effetti hanno fatto una vita in solitudine, non sono riusciti a mettersi in relazione. E questo poi è il dramma che nasconde la maggior parte delle persone che fanno i testamenti del tipo che abbiamo letto e che ho raccolto. Lei ha tracce di cacciatori di testamenti o cacciatori di eredità? Perché penso una persona sola che vive con cani e gatti è anche facilmente preda di un approfittatore che riesce velocemente a farle cambiare opinione, basta molto poco per sostituirsi a un cane e un gatto. La circonvenzione l'incapace in questi casi è abbastanza diffusa. Le persone che hanno bisogno di assistenza, di cure, di un minimo di affetto negli ultimi momenti della loro vita sono disposti poi a cedere, ma anche perché le persone un poco alla volta, indipendentemente da quello che si pensa e che viene detto, subiscono una modificazione rispetto a quelli che sono i beni terreni. Un po' man mano che vanno avanti negli anni, lasciano un po' questa attenzione su queste cose e finiscono con rivalutare sentimenti, affetti, rapporti, fin lì trascurati, magari non proprio per colpa loro, ma perché l'ambiente nel quale hanno vissuto non era quello giusto. Questo lei me lo insegna, perché anche proprio della sua regione, soprattutto però magari un po' più nel casertano, il dramma delle badanti dell'est, che si prendono questi signori, questi anziani molto vicini alla dipartita e agiscono in maniera molto concreta, ne abbiamo parlato già in una trasmissione, per far loro cambiare testamento, ma tutto sommato è meglio lasciarlo a una moldava che lasciarlo a un cane. Cara Valentina e caro Giovanni, in attesa di sottopormi a un'operazione che mi assicurano non grave, ma non certo scevra di impreviste complicazioni, che hanno già fatto fuori così le buonanime di mamma e di papà, dispongo anticipatamente dei beni che ho ereditato per via materna e paterna. L'appartamento di mamma, quello più grande, lo darei, anzi, lo do, ai vostri due figli, che sono miei prediletti nipoti. L'appartamento di papà, quello piccolo, lo darei, anzi, lo do, al troppo caro Valerio. Questo legato però è sotto condizione, Valerio già lo sa. Lo faccio a patto che egli mantenga l'antica promessa di amare, istruire, curare, mantenere nostro figlio Titù. Codicillo. Istruzioni per Valerio. Caro Valerio, devi portare a spasso 3 volte al giorno Titù e almeno 1 volta al mese dal solito parrucchiere. È indispensabile portarlo almeno 1 volta al mese alla monta per fargli dimenticare l'amore impossibile per la lupa del vicino. Tutto questo vita natural durante, dico la vita di Valerio, perché nostro figlio Titù, il più bel bassottino del mondo, è immortale nei nostri 2 cuori che un dì batterono all'unisono i rintocchi della felicità. Muoio col cruccio di questa infelicità di Titù. Pazienza, forse andrà meglio nella nuova vita. Addio a tutti. Efisio. Quale padrone migliore potrebbe augurarsi un cane che lascia come volontà testamentaria, che il cane abbia diritto, di una monta 1 volta al mese? Una volta al mese lo portano al casino delle cagne per fargli dimenticare, come se il cane potesse avere sentimenti e pulsioni legati appunto all'affettività, fargli dimenticare la cagnolina di cui è innamorato. Eugenia, buongiorno. Buongiorno Gianluca, grazie, buongiorno a tutti. Ha fatto testamento? Sì, 2 righe olografe che tengo in borsetta in casi facciamo. Beh, se la scippano, scusi. Ho un'altra copia, Che la tiene nascosta in seno dentro un medaglione? Sì, più o meno. E niente, io ho voluto scrivere anche il testo di un possibile manifesto di lutto che dice: saluterà gli amici, il suo caro bosco e i suoi cani nella pineta. Anche lei coi cani? Sì, sì, sì. E accompagnatemi attraverso il sentiero che va dalla pineta alla piazza. Ah, quindi lei ha già preparato lo stradellino del suo corteo funebre? Sì, una cosa molto semplice. Non disturbate le piante, gli animaletti del bosco, tutto il bosco con preghiere, perché se esiste un Dio, questi è occupato a preoccuparsi di ben altro del cosmo. E poi nessun rituale ridicolo. E qualcuno reciti testi contenenti amore per la natura e sull'armonia del credo. Un piccolo sottofondo musicale di musiche di Shostakovich e di Mozart. Desidero che le mie ceneri vengano, se possibile, messe ai piedi di una pianta. Non abbandonate i miei animali, li prenda qualcuno che li ama. E una parte del valore della mia casa venga dato in parti uguali a un volontario medico della Bolivia e a un ente di volontari che aiuta gli animali. E ma di lei cosa devono farne poi in tutta questa cosa? Non lo specifico. Cremata. Ah, bruciata? Sì, sì, sì. E le ceneri sparse nel boschetto? E le ceneri o nel bosco o sotto una pianta, indifferente, non è un grande problema. Ma pensa, lei ha parenti, nipoti, figli, fratelli? Sì, sì, beh, ma... pensi quanto sono contenti di averla sentita questa mattina sapendo che non si beccano niente? No, beh, una parte del valore della casa, ovviamente. Vabbè, sai, dividerla con il canile, con il medico boliviano... Se gli va bene così, se no... Io starei attenta alla borsetta da oggi in poi. Grazie Eugenia. Matteo. Matteo, pronto? Eccolo. Salve Mattia, per quello che non parlavo. Ah, scusi, mi hanno scritto Matteo, non un po'. Mattia, ecco. Lei ha 21 Salve. Anni. 21 anni. E già ha pensato al testamento? Lei ha già pensato al testamento? Non ne avrò bisogno perché non lascerò nulla, mi sperpererò tutto quello che posso. Ah, questo è un ottimo progetto di vita. Bene. Grazie. Allora, perché volevo raccontare l'esperienza di mia madre. La sto sentendo. Cosa le ha lasciato? Che è avvocato e ogni volta che viene a lavorare con qualche testamento leggo sempre che l'ultima frase che rimane in calcio al testamento è: mi raccomando, non litigate. Ma lei c'è una radio accesa, la può chiudere un attimo? Perché sento un eco, è sinistro, perché già penso che una voce dal di là. Ecco, perfetto, bravissimo. Allora, le dicevo, ogni testamento che leggo di quelli che mia madre viene ad avere... Ma però lei non li dovrebbe leggere, però lo sa. Certo, però sa, li lascio sul tavolo della cucina mentre prepara da mangiare, io l'occhio glielo butto. Vabbè, ci butteranno macchie di sugo, schizzi di maionese, è una cosa schifosa. È un pessimo avvocato, effettivamente. Vabbè, non lo dica forte, sennò le rimane nulla. E allora? Le dico, chiudono sempre questi genitori che lasciano soldi ai figli nella parte che possono con mi raccomando non litigate. Volevo sapere se secondo lei sono sinceramente preoccupati del litigio dei figli o se è una sadica perversione. No, lo fanno apposta perché sperano che si accoltellino alla lettura di quel testamento. Melog 2.0. Cara Evelina, in 40 anni di vita insieme abbiamo messo al mondo 3 figli e li abbiamo sistemati. Abbiamo acquistato la casa in città dove viviamo, una casa più piccola al mare, l'auto nuova. Ci siamo concessi 3 viaggi all'estero e siamo 5 volte nonni. Anche l'eredità l'abbiamo già assegnata. Sembra che ogni cosa sia andata al suo posto e che non ci sia altro da fare. Finalmente posso dirti che ti voglio bene. Tuo Andrea Sarno. Salvatore De Mattesi, ricordo, autore in piena facoltà, Mondadori, sovrintendente archivi notarili di Napoli, quindi esperto in testamenti. Stavo riflettendo, signor De Mattesi, sull'ultimo testamento di cui parlava quel ragazzo, ma le sembra plausibile che un testamento oggetto così delicato e così riservato sia messo alla vista anche delle attenzioni familiari da parte di un avvocato? Non voglio fare il moralista, però mi ha un po' colpito. È bella la domanda. Io ho fatto una cosa del genere, occasione di fare il testamento in occasione di una operazione molto delicata, e il testamento io l'ho lasciato a bella posta in giro, per cui quando le cose mi sono andate bene eccetera, per un po' almeno le cose in famiglia sono andate molto bene, perché io sono riuscito attraverso il testamento a comunicare delle cose che evidentemente da caprone non riuscivo a comunicare a voce. Questo è. Giocando sul pathos di lei in punto di morte è riuscito a dire cose che hanno lasciato una traccia. Ho lasciato una traccia in famiglia e ho avuto come contraccolpo un esito positivo, cioè una maggiore considerazione. Beh, questa è una bella furbata, potrebbe essere un bel consiglio per gli ascoltatori. Fingete un momento cruciale della vostra vita e lasciate dimenticato un testamento così casualmente in cui dite perdono per tutte le corna che ti ho messo, non lo farò mai più, oppure ti ho sempre amato tutta la vita, oppure figli miei, siete la luce dei miei occhi, vi lascerò tutto, e sarete circondati da sorrisi e da attenzioni per un bel po' di tempo, vero? Ecco, sì. Volevo richiamare l'attenzione su un dato. Da tutti i testamenti che sono stati riferiti telefonicamente, risulta che la maggior parte delle persone si vuole fare cremare. Questo dato è importante perché fa capire che magari non in modo consapevole tutti quanti continuano a temere di potersi svegliare nella tomba. A questo proposito, ho trovato dei testamenti terribili, uno solo piuttosto divertente. Io le posso dire in anticipo quello che scriverò: infilatemi un paletto di frassino nel cuore, almeno starò sicuro. Ecco, ma c'è gente che ha pensato a cose peggiori. Ce le dica, perché ci divertiamo. Però c'è tipo qualcuno che ha pensato in modo più divertente. Si è fatta fare una bara tutta particolare, dentro si è messo un minimo di beni per sopravvivere, tipo acqua, luce, e un walkie-talkie per poter comunicare con il nipote. Sì. Il problema è che io non sono riuscito a rintracciare il nipote. Mi sarebbe piaciuto sentire se è sintonizzato con lo zio o no, e se è stato così furbo da far finta, non so, se era scaricata l'apparecchio o che non c'era campo, non c'era. Sì, ma quelli che chiedono una soppressione certa e sicura, cosa chiedono? Veleno, taglio della testa, paletto nel cuore? Qualcuno ha chiesto uno spillone nel cuore, qualcun altro ha chiesto che gli venissero tagliate le vene all'altezza del calcagno e dei polsi. Sì, così quando si sveglia poi muore dissanguato, una morte lunghissima e dolorosa. Muore prima di svegliarsi, perché probabilmente la coscienza verrà dopo che ha perso tanto sangue, insomma. La cosa più sicura è farsi tagliare la testa, almeno uno non è sicuro che non ritorna in vita in quella bara come la sposa di Kill Bill, parte seconda. Paolo, buongiorno. Ah, buongiorno. Senta, io ho 85 anni e sono sposato da oltre 50 anni, sono profondamente cristiano, ho 4 figli, l'ultima figlia si sposerà il 15 maggio. Ha dei nipotini? Non ho più niente, perché ho lasciato, io e mia moglie abbiamo lasciato tutto ai nostri 4 figli. Forse le quote non sono state uguali, ma quando si danno in vita loro sono stati più contenti, ognuno vive la sua... Quindi non litigano i figli, sono felici? Sono felici i figli. Ecco, il mio testamento, che lo scriverò adesso, ormai sono arrivato, ma lo scriverò soprattutto per principi morali, per dire cortesemente di continuare ad avere la pace fra di loro. Anche l'appartamento che abito io e mia moglie è di una figlia e noi abbiamo solo l'usufrutto. La macchina che io tengo è sempre intestata a una mia figlia, perché ho avuto un'esperienza negativa di questi testamenti, successioni, che non le dico. Diciamo che è anche un atto di coraggio fare questo, perché i figli a questo punto, se fossero snaturati, potrebbero prendervi con la carriola, mettervi all'ospizio e dire tanto ormai... Fortuna, sono 4 figli. Sono ben allevati, quindi diciamo che normalmente... I genitori hanno una titubanza nel fare un'operazione giusta come la sua, perché se le divisioni si fanno equamente in vita, o perlomeno c'è modo di discuterne a genitori vivi, almeno si ha la serenità che non ci saranno le coltellate quando uno muore. Ma molti dicono: se faccio questo poi i figli mi sbattono via, non mi seguono, non mi assistono, come se l'unico prezzo per avere l'attenzione dei figli sia proprio quello di lasciarli sospesa la vicenda testamentare. Quindi lei questo problema mi sembra che l'abbia piacevolmente risolto, no? Sì, io sono contento di questo, scriverò il testamento, ma solo per invitarli ancora ad andare d'accordo, a proteggere. Vabbè, adesso non si commuova, c'ha 85 anni, ancora mediamente c'ha un bel po', se si mantiene bene da vivere, quindi si godrà il suo appartamento in usufrutto il più possibile, almeno questo glielo auguro. Niente colpe per l'eternità. Nella pienezza delle mie facoltà, nel senso che non sono rimbambita ma solo piena di acciacchi fino alle orecchie, io qui presente e sottoscritta dal Gisa Violante, purtroppo coniugata da un secolo, lascio tutto a mio nipote non avendo altri possibili eredi, specie da parte di mio marito. Tutti i suoi fratelli e sorelle infatti non hanno avuto figli e questo spiega perché non li ho avuti neppure io. In questa occasione però reclamo giustizia, voglio che si conosca questa amara verità. È già troppo quello che ho dovuto sopportare in questa vita, tutto il peso di una colpa, di una vergogna che non spettava a me, ma a mio marito. Non intendo sopportarla anche per l'eternità. Adalgisa Violante. Salvatore De Mattes, quanto pesa questo rancore, queste vicende non risolte nella vita, e quanto ci si illuda poi che lasciandole scritte in un testamento si possa risolvere qualcosa? È molto bella la dichiarazione che ha fatto quel signore prima. Sì, quella è la condizione ottimale che tutti vorremmo avere. Sì, evidentemente ha una famiglia che funziona, è una persona equilibrata, perché ha dato i beni quanto potevano servire. È inutile dare dei beni ai figli quando hanno fatto 60-70 anni. Una 60 anni cosa ci fa con la casa dei genitori? Appunto, è inutile. Tanto vale darglielo quando hanno 20 anni, 30 anni, aiutarli quando serve. I beni dovrebbero smettere di essere oggetto di disposizioni testamentali. Mi è piaciuto quel signore che ha detto: io farò il testamento, ma per parlare dei miei sentimenti, della mia filosofia di vita, raccontare la mia esperienza di vita in modo più compiuto, eccetera. Queste cose qua sono molto belle. Alessandra, buongiorno. Alessandra. Buongiorno, sono Alessandra. Sì, è pronta a fare testamento? No, veramente volevo lamentare il fatto che in realtà uno non può assolutamente lasciare ciò che vuole a chi vuole. Perché? Le porto la mia esperienza. Beh, saranno le legittime testamentari, quello è chiaro. Esatto. Ma le porto il mio silenzio che è ancora peggiore. Allora, io e i miei fratelli siamo orfani di madre da piccoli, io avevo 16 anni. Il papà si è risposato con una signora che a sua volta non aveva figli, e il papà è morto. Allora questa signora che noi umanamente assolutamente consideriamo già la nostra mamma, ma della quale noi non partecipavamo al suo asse ereditario, quindi quello che lei ha ereditato da papà e la società che gestiamo insieme, noi non siamo suoi eredi. Allora abbiamo chiesto al tribunale, lei ha chiesto di adottarci. Il PM che ha interrogato noi, nostri mariti, eccetera, ha dato... Sì, è una questione, ho capito cosa vuol dire, sì. E il giudice ha negato l'adozione adducendo che tra me e lei ci sono 13 anni di differenza e non 18, e che non è naturale che una donna possa avere un figlio a 13 anni. Adesso guardi, non voglio entrare nel fatto giuridico, mi sembra sensata come cosa, per adottare uno con 13 anni di differenza, sembra, però entriamo in una vicenda... Ho 42 anni e lei ne ha 57, sì, e l'adozione era evidentemente solo per una questione ereditaria. Eh sì, ma proprio per questo il giudice dice non è plausibile, perché era chiaramente fatto. Adesso però non voglio entrare in una vicenda, vediamo se Salvatore De Mattesi in 10 secondi proprio ci riesce a dire qualcosa, perché qua apriamo un altro argomento. Noi eravamo all'aspetto passionale del testamento, la signora pone un problema giuridico, mi sembra difficile risolvere adesso. Ecco, concede al testatore la massima libertà. Un testamento olografo può essere scritto così: io non voglio lasciare niente a nessuno, mi mangerò tutto, lo voglio dare alla Moldava che mi ha dato gli ultimi momenti di felicità. È evidente che poi l'erede impugnerà, farà, ma al testatore che gli interessa? Il testatore quello che voleva fare l'ha fatto, cioè ha voluto comunicare il suo odio e il suo disprezzo e l'ha fatto, e questo è il testamento. E il comunicare anche la sua gratitudine alla Moldava, che gli ha dato i più consistenti attimi di felicità che magari nel corso di una lunga e intensa vita nessuno ha saputo dargli. Grazie a Paolo Corleoni, grazie a Fabrizio Intonti, grazie a Salvatore De Mattesi, grazie a tutti quelli che hanno fatto questa mattina testamento, con i migliori auguri che sia aperto il più tardi possibile. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.